stai lì, cioè, trovi troppa gente davanti, poi quelli delle case sono a rallento, ogni tanto vanno, si prendono un caffè, uno che lavora, che c'è gente che deve sparire lì 10 minuti, un quarto d'ora per prendersi un caffè. Sì, no, le porte, per carità, nonna, io non ne ho né conto, non ho mai avuto. Mia moglie purtroppo c'ha a che fare perché la mamma c'ha, diciamo, la credito della pensione, là lei c'ha la delega, quindi tutte le volte deve andare là anche per fare pagamenti. Mamma mia, lungaggini, quando c'era il Covid non ne parliamo, insomma, infatti anche lì sto pensando di togliene tutto, chiuderlo quel conto e aprirlo in banca, perché la banca ti dà la possibilità poi di anche di operare online, capito? Invece le poste no, se hai la delega. Eh sì, quello c'è ragione, cioè. No, io avevo già il conto in banca quando stavo lavorando, poi sono andato in pensione e ho lasciato tutto nella stessa banca, tutto lì ho lasciato. Mi arriva la pensione, lì mi arriva tranquillo, no, non devo fare fila, andare a prendermi la pensione, non devo fare niente, basta. Quando mi alzo, per dire il giorno 1, mi alzo, vado in banca, ci sono i soldi, vado al banco, vado e me li prendo. Capito, io lo stesso, io da quando ho aperto il primo conto, sono stato dipendente del Banco di Sardegna per circa 9 anni buoni e avevo il conto col Banco di Sardegna perché ero dipendente, quindi non mi costava niente, però poi avevo i contratti a tempo, alla fine hanno chiuso il centro elaborazione dati, capito, e quindi ci avevano tutti mandato a casa. E da allora avevo cambiato banca, sono passato con la, allora si chiamava la Cariplo, quella che c'è via Pasquale Paoli, poi è diventata, adesso è Banca Intesa, e sono sempre stato con loro, per cui lì c'ho tutto, mi mettono lo stipendio, insomma, quando ho avuto il mutuo l'ho preso con loro, me l'hanno dato senza nessun problema, per cui cambiare banca non me lo fa fare nessuno, capito? Anche io molte cose le pago così, se devo fare un bonifico, versamenti di scuola per i miei figli, eccetera, faccio tutto online con l'applicazione della banca, ed è una comodità assoluta perché in banca non ci metti più piedi. Sì, ma in effetti è così, in banca, qui addirittura la banca mia, Banco Nazionale, è chiuso, c'è solo il banco, lo sportello del banco, ma se basta. E se devo andare in banca proprio nazionale, devo prendere un appuntamento tramite il telefono, c'è un numero che mi hanno dato loro, prendo un appuntamento e il giorno che mi dicono loro io devo andare. E devo andare a Sassari, in Piazza d'Italia. Sempre lì è stata la sede della Banca Nazionale, quella di Piazza d'Italia. Infatti da poco ho fatto un documento che mi serviva per fare dei documenti e ho preso l'appuntamento in banca, sono andato 10 minuti, mi ha fatto il foglio tranquillo, ci ho messo 5 minuti. Infatti in banca è più veloce, le poste sono troppo macchinose, lente, hanno sistemi operativi vecchi, insomma le operazioni sono troppo lunghe, capito? Poi la posta si è voluta trasformare, capito, anche in banca, quindi c'hanno 1000 sportelli e tutti fanno le diverse operazioni, invece dovevano fare gli sportelli dedicati, chi deve fare raccomandati, ritirare posta va in uno sportello, chi invece deve fare versamenti, deve fare bonifici, eccetera, un altro sportello, chi deve solo pagare bollettini postali, cose semplici, un altro ancora, come era in passato e facevano molto prima. Invece adesso tutti fanno le operazioni sia di spedizione, ritiro, pacchi o posta raccomandata, ed è un casino alle porte. Sì, ma lo so perché mia moglie c'ha la delega per la pensione di mia suocera, che lei ha 82 anni e a malapena riesce con le gambe anche a camminare, fatica, e allora non ci va più lì, e ci va mia moglie, c'è la delega. Oh, ogni tanto questi stronzi, quando vedono che prende 2-3 volte dal bancomat, poi gli bloccano tutto, gli bloccano e vogliono di nuovo la delega dall'interessata. Adesso gliel'ha detto, dice, guarda che mia madre per farmi la delega qua non ci può più venire, che non ce la fa, allora come deve fare a prendersi i soldi della pensione? E allora gli hanno mandato un foglio, l'ha firmato, intanto te lo bloccano. Eh sì, ho capito. No, non è. L'unica cosa è cambiare proprio. Cioè, io lo consiglio, perché mia moglie quando può ha detto va, andrà in banca a chiedere, perché non se ne può più. Addirittura lei ha una delega speciale, no? Della mamma, è unica figlia poi oltretutto. E, niente, anche a lei tutte le volte, secondo che impiegato c'è o che impiegata c'è, gli dicono, signora, la delega, ma se vi siete fatti la fotocopia l'ultima volta, ma guardi, io non so dove l'hanno archiviata, quindi gli tocca tornare a casa a prendersi la delega perché magari l'aveva dimenticata, capito, di portarsela. Sono una massa di stronzi lì alle poste comunque. Sì, ma lo fanno perché non hanno voglia di lavorare, di cercare, perché uno, se quella che è all'archivio, capita, deve saperlo dove metto la roba, quando arrivo io, deve sapere che io, che sono lì, deve sapere dove mi ha messo, dove ha messo la mia cartella, non è così, non sappiamo dove l'abbiamo messa, cos'è, ce l'ha buttata nel cestino. E stasera si è entrato in radio, c'era qualcuno? Ma eravamo su quattro, io, Luca Flipper, poi c'era Gianni Doppio Room, poi c'era Claudio di Porto Torres, e poi è entrato da Badesi o da Coso, quello, adesso non me l'ho scritto neanche, mi sono dimenticato il nome. Da Badesi? Badesi chi c'è? Non è Enrico, no? L'Isola Rossa Trinità. Sì, Enrico, Isola Rossa Trinità. Infatti qualche giorno fa io ci avevo parlato, stavo girando per i canali in banda laterale, no? E ho sentito questa conversazione in italiano, così stavo ascoltando, stavano parlando di località della Sardegna, questo però non ha l'accento sardo, capito, perché mi sa è toscano, qualche zona del genere. E alla fine poi ho chiesto di entrare, mi hanno fatto entrare e c'era lui, questo Fabio di Bonannaro e l'altro era di Ozieri in banda laterale, Giovanni, però lo sentivo molto basso e lui mi sentiva bene, ma Giovanni lo sentivo molto basso, e gli avevo detto a questo di Trinità, questo Enrico, detto, guarda che se provi, noi solitamente stiamo sul canale 10 in AM la sera, a volte anche dopo cena, ho detto se entri magari ci fa piacere, insomma, scambiare quattro chiacchiere anche con qualcun altro di altre zone, capito? E molto probabilmente stava girando per questi canali in AM, oppure in FM. No, eravamo in AM. Infatti dice che lui era nei canali alti, era poi è sceso perché doveva andare a mangiare, era nel momento che doveva, quasi le 8, e ha girato così per i canali e ha sentito a noi che gli arrivavamo molto forte, e allora è entrato a salutare. Ho capito, sì, giorni scorsi ci ho parlato, infatti l'avevo invitato, ho detto ma magari prova sul 10 la sera, quasi sempre ci siamo di pomeriggio a scambiare quattro chiacchiere, così pareri più o meno su radio, su antenne, insomma chi più ne ha più ne metta, il mondo della radio è così, dai. Capo, effetti è così, ma lo grido, niente, io me ne sono salito così, ho detto a vedere se c'è qualcuno, di solito c'era, come l'altra notte che abbiamo chiacchierato parecchio, e ho detto vediamo un po', e invece non c'era nessuno, perché io poi non sono entrato tu. Io adesso stavo ascoltando in 40 metri, poi sono sceso e ho messo l'altra radio in 40 metri, che ce l'ho ancora in 40 metri. E questa l'ho messa in 27. Ho capito. No, io solitamente se non c'è nessuno così metto in ricerca e cambio magari da M, me ne passo in banda laterale, però poi se vedo che anche lì non c'è nessuno ritorno in AM, me ne sto sul 10 in ascolto, mi metto a fare qualcosa, poi ogni tanto entra qualcuno a scambiare quattro chiacchiere. E beh, Fra, com'è lì? Ventoso a Sorso? Eh sì, un po' di vento c'è ancora. Ho visto poco fa, sono uscito fuori, che mia moglie mi ha detto, dice portami dentro quella coperta che c'è appesa, si è asciutta, ho andato, l'ho tolta, però c'era un po' di vento, è freschino anche, un po' fresco. Sì, fresco è fresco, perché stasera dopo pranzo ero andato per verso Città Mercato, no, sono andato da Carrefour, ho trovato il tergicristallo della macchina di mia moglie, perché ne aveva uno rotto, e allora sono sceso, poi sono rientrato, ho fatto un po' di spesa, ho detto mi sa che scendo intorno alle 7:30 a cambiare il tergicristallo, e ti dico che c'era questa arietta fresca, ero in magliettina, ma ho fatto veloce, ho cambiato quello, ho chiuso tutto, me ne sono risalito dal cortile, ho detto non ci sto qua a fare, ed erano le 7:30, 8:20, e c'era questo venticello, ti dico, tutto un programma. Sì, ma è da presto che c'è questo venticello con l'aria fredda, e infatti io mi sono messo stasera, mi sono messo a cambiarmi le pastiglie della macchina, quelle anteriori, e poi ho preso un click, stavo mettendo un click, e cioè, il pantaloncini, questa arietta fredda, gatta giù, qua mi frega, cazzo, vuoi vedere, chiuso tutto, li portiamo un altro giorno a cambiare le pastiglie. È stato bene, no, poi beccarsi adesso raffreddore, influenza, è una rottura di scatole. Ieri notte ho lavorato io di notte, no, ho fatto il turno dalle 21 alle 5 del mattino, non era freddo ma c'era un'umidità, perché sono uscito a fare poi il giro della perimetrale, e ho preso la macchina che era parcheggiata fuori in piazzale ed era tutta bagnata dall'umidità, tutta tanta bagnata. Me lo immagino. Io sono ne sto uscendo da un'influenza bella grossa, perché io ero anche, oltre che mi ha preso l'influenza, mal di gola, tutto, sono andato, mi ho fatto un tampone ed ero positivo, sono rimasto 11 giorni a casa. Dopo 11 giorni, ieri mattina a farmi il tampone, è negativo, ne sono già uscito, però sono stato 11 giorni a casa. E i vaccini li avevi fatti tutti e tre, Franco? Sì. Non male, quindi ti ha pizzicato in maniera lieve, diciamo, però è una rottura, un sacco di gente dice che sta passando così il Covid, come una semplice influenza, capito? Sì, ma il medico mi ha detto, a me dice, tutti quelli che prendono l'influenza, se si fanno il tampone, rimangono positivi al coronavirus, rimangono, perché il coronavirus è un'influenza, non è un virus che arriva, se ne va e poi si molla, no, è un'influenza, è questo coronavirus. Se ti prende, se tu ti metti fuori, prendi un colpo d'aria, ti viene mal di gola, fai il tampone, sei positivo. Sì, perché già ho sentito che c'è un bel po' di gente così, gente che lo fa, dice ma non credo, perché lo fanno il tampone e risultano, come è successo a te, tutti positivi al coronavirus, vai, quando ne usciremo definitivamente da questa roba. Comunque diciamo che la situazione già è migliorata rispetto a un anno fa, e almeno adesso insomma è tutto aperto e non abbiamo più l'obbligo, almeno all'aperto, di portare la mascherina, almeno quello è già grande cosa. Invece purtroppo al lavoro noi la dobbiamo tenere sino al 15 giugno e poi dobbiamo tenere oltretutto quelle grosse, no? La FFP2, e insomma ti fa respirare a fatica. Capo, sì, già le conosco quelle, perché le avevamo anche noi quando lavoravamo al lavoro. E ti dico una cosa, se tu vai in certi posti, anche se è libero, non la puoi mettere, mettitela la mascherina, se, specialmente se è posto affollato, mettitela, vai tranquillo, che è sempre quello stronzo che ha mal di gola, che è influenzato, non dichiara, non si fa tampone e esce sempre. Infatti la cosa migliore sarebbe quando uno ha sintomi così, visto la situazione, se ne sta tranquillo a casa, al limite ti prendi i tamponi, quelli della farmacia, e li provi, se non hai niente al limite puoi uscire, però no, andare in giro a contagiare gli altri è da stronzi veramente quello. E mi sembra proprio di sì. Io quando mi sono sentito male, che ho cominciato il mal di gola, tutto, ho detto, caspita, a mia moglie gli ho detto, ma io mi sento mal di gola forte, mi faceva male la gola proprio, non riuscivo neanche a inghiottire, e ho detto io vado a fare un tampone. E ma quando mai, dice, cioè, io vado, io si è seduta in macchina anche lì, e l'abbiamo fatto tutti e due, lei era negativa e io positivo. Evidentemente tu ti avrà contagiato qualcuno magari. E certo, magari sono andato da qualche parte, perché stavo uscendo, oddio, andavo a prendere il pane, uscivo qualche volta a prendermi un caffè o a prendermi il vino in cantina, però qualcuno probabilmente, perché ultimamente la mascherina non la usavano da nessuna parte, nessuno, solo in farmacia, quando entravo in farmacia quella era obbligo. Io stasera sono entrato da Decathlon a Sassari, no, vicino lì a Carrefour dove c'è il centro Tanit, dopo pranzo, e la maggior parte delle persone, almeno il 90% delle persone, erano dentro il negozio tutte senza mascherina, tutte, ma c'erano un sacco di persone, tutti senza mascherina. Adesso almeno nei posti chiusi, no, mettila per precauzione, anche se non c'è l'obbligo, ma mettitela per te stesso e anche per gli altri, insomma. Invece niente, la gente proprio non ne vuole più sentire di portare mascherina. Però c'hanno la guardia lì all'entrata, stanno pagando la guardia, stanno pagando. A che cavolo stai pagando a fare quella guardia? Guarda che io, loro misurano la febbre, e beh, quando mi hai misurato la febbre che non ce l'ho, cosa cavolo hai fatto? E magari sono positivo, perché io ero positivo 11 giorni, 10 giorni, per dire, e febbre non ne ho avuto niente. Guarda che se tu vuoi passare anche con la febbre, tanto ti sparano in testa, in fronte, no? Cosa fai? Ti prendi uno di quei sacchetti di ghiaccio istantaneo, no? Perché all'aeroporto molte persone facevano così, con la febbre, sapevano che la misurazione era frontale, no? Perché era con le macchinette quelle in automatico, c'è la termocamera che ti riprende la fronte e ti misurava la febbre. E molti prima di entrare cosa facevano? Usavano quei sacchetti di ghiaccio istantaneo, se li mettevano in fronte, quindi abbassavano notevolmente la temperatura, poi passavano al termoscanner e ti dava 35,6, capite? Magari invece ci avevi 38,5 di febbre, capite? Quindi il fatto di misurare la febbre, secondo me, non è che serva più di tanto per scovare insomma chi è positivo o meno, capito? Anche quando eravamo in piena pandemia, la gente le furbate le faceva lo stesso. Sì, ma vedi, sull'aereo ti sembra giusto a te che tu, ma c'hai la febbre ed entri così truffando, cioè prendo per il culo la gente. No, perché ci voleva una persona lì controllando, se avrebbe visto una cosa del genere, io lì fuori, lì non parte. Ma tutte queste cose purtroppo sono venute fuori dopo, capito, che la gente poi ha iniziato a usare queste, diciamo, informazioni, metterle sui social network, capito, e quindi ormai, diciamo, ne siamo usciti. Certamente se le avessero dette da prima queste cose avrebbero trovato diversi sistemi, diciamo, per scovarle, magari prendendo la temperatura da diverse parti del corpo, non solo dalla fronte. Certo. Tanto se c'è la febbre bolli tutto. Infatti. E niente, non c'è nessun altro sul 10 stasera, serata che la gente ha attaccato al televisore forse. Sicuramente, ma non c'è niente, c'è cazzate. Oh, ci sono film film che non mi piacciono a me, tutti sono, però non me ne frega niente, ce l'ho accesa, ma non me ne frega niente di guardarla, figurati. Stavo dicendo, il Galaxy se l'hai portato? Il Galaxy l'ho portato quando è ieri gliel'ho portato, che era sabato, perché mi aveva detto la persona, dice chiamami sabato così ci mettiamo d'accordo e eventualmente me lo porti domenica pomeriggio. E invece mi ha chiamato, mi ha scritto su WhatsApp veramente, dicendomi che siccome domenica aveva un impegno, se riuscivo a portarglielo, e io neanche farla apposta a questa radio, me l'avevo messa in macchina perché ero ieri andato a Bonorva perché c'è mia suocera là con mia moglie a trovarla, no? E da Bonorva andare a Coso, a Borore, che sono una ventina di chilometri, quindi abbastanza vicino, sono circa un quarto d'ora, 20 minuti in macchina, è tutto super strada, perché vai oltre Macomer, capito, passi il bivio di Mirori e poi c'è quello di Borore, capito, e quindi già si fa veloce. Quindi ci ho fatto un salto e gliel'ho portata, lui mi ha detto, questa per, gli ho spiegato quali erano i problemi, mi ha detto solo che la doveva aprire, vedere cosa c'era, cosa non c'era, però mi ha riscritto oggi che praticamente mancano dovrà sostituire dei transistor, capito, forse ha trovato qualcosa di bruciato, magari come l'hanno saldato l'hanno fatto male. Capo, vabbè, se ci riesce quello, so che l'ho sentito dire, dice che è molto bravo, dice che, non è neanche caro. Sì, ma a me non... praticamente lui vuole questo transistor originale della Mitsubishi, dice li vendono in coppia, c'è una sigla C231245A-C, è il simbolo della Mitsubishi. Sì, l'originale proprio. Lui vuole. Vabbè, ma riprende lui, non ti interessi tu, no? Lui mi ha detto che per lui è difficile reperirli, che li dovrebbe ordinare, non sa, e poi se gli arrivano quelli giusti o meno, quindi gli ho detto che al limite glieli trovo io, se provo ad andare domani da Fusaro se ne hanno, se no li dovrò ordinare. Fusaro non penso, tentare non costa niente, però. Perché lui mi ha mandato questa foto e c'è questa sigla qua, quindi gli faccio vedere questa Fusaro, se ce li ha li prendo, se no li dovrò ordinare. E più avanti vedo, lo chiamo anche io, busco il numero, perché c'è un Galaxy stesso, funziona perfettamente il mio non ha niente. Solo che c'ha lo smitter che dice che bisogna cambiarli, si è bruciata una resistenza, stavano dicendo. E basta cambiarli quella, dice, puoi metterla in linea. Penso che quello sia un lavoro, diciamo, minore rispetto a quello che dovranno fare alla radio che gli ho portato io, capito? Quindi penso che lo faccia, ma io sicuramente questi transistor che mi ha chiesto in un modo o nell'altro glieli faccio avere, o glieli spedisco e forse faccio prima, tanto in un paio di giorni gli arrivano. No, mio non è niente, devi tu dare una resistenza e mettergli l'altro, punto. Devi fare tutto questo lavoro. E al limite me lo dici e quando finirà il mio, capito, glielo posso anche accennare, poi ci sentiamo e, capito, se glielo vuoi portare magari te lo sistema anche quello. No, poi già lo chiamo io, al limite, poi mi faccio una scappata io. Già lo troverò. Già è facile trovarlo, io l'ho messo su Google, lui mi ha mandato la via, il numero civico, in un attimo l'ho trovato, metti il navigatore sul telefono, ti porta là. Poi ho visto la fotografia della strada, no? Street View, ho cercato il numero e guarda caso c'era la fotografia della casa, ho visto delle antenne piazzate, ho detto deve essere qua, poi ho guardato il numero civico, era quello. Capo, figurati. No, io c'ho il navigatore io anche, senza mettere Google, c'ho direttamente il navigatore in macchina. Io lo stesso, solo che ieri sono andato ad usarlo e andava aggiornato, capito? Quindi non l'ho potuto usare, meno male che già c'è Google col telefonino e quindi ho usato quello navigatore di Google, capito? Capo, a proposito di usarlo, io sono più di 2 anni che non lo uso. Adesso forse vorrà anche aggiornato quello, vorrà. A proposito, adesso mi sa che me lo aggiorno. Tu è fisso nella macchina oppure è uno di quelli che prendi tu e lo colleghi in macchina semplicemente? No, lo metto io in macchina. No, nella macchina non ne ho. La mia macchina c'ha 15 anni, non c'erano allora. Il mio è lo stereo della macchina che ha l'interfaccia, capito? E quindi scegli navigatore, perché è una macchina che ho preso 4 anni fa, capito? Quindi è di quelle abbastanza moderne. E funziona anche bene, funziona bene sia come stereo sia come navigatore, c'ha un bel display grande, capito? Ed è comodo, solo che ogni tanto quando c'è l'aggiornamento, ma un paio di volte l'anno succede, capito? E ti fa aggiornare le mappe se vuoi, praticamente devi scaricarti l'app di questo navigatore che si chiama Medianav, che ce l'ha la Renault e la Dacia, io c'ho una Dacia, e praticamente ti scarichi l'aggiornamento su una chiavetta, poi la inserisci nella radio e automaticamente si aggiorna tutto quanto, sia il sistema radio e anche il navigatore. Capo, ho capito. No, io la verità lo stavo cambiando, stavo mettendo un monitor da 17, stavo mettendo, con radio tutto. Poi chi lo stava parlando mi ha detto, dice, poi non puoi aggiornare più il menu del computerino. Ha detto, no, non toccare la radio mia, allora lascia perdere la radio originale, perché da lì a me mi segna tutto, se c'è un guasto, se non c'è un guasto nella macchina, perché cosa mi si è fermata, mi dice tutto, mi dice lascia perdere, lascia, e non l'ho più cambiato. Sì, no, allora non ti conviene. No, il mio è separato, il computerino diciamo di bordo, quello ce l'ho nel quadro della macchina, dove c'è un tasto che tu tocchi e ti fa vedere i chilometri, quanti te ne mancano per fare il tagliando, si accende la spia anche della pressione delle gomme, se ti si abbassa la pressione di una gomma si accende la spia, oppure insomma se si accende la spia dell'antiparticolato vuol dire che magari devi portarla lo stesso a controllare, ti dà tutte le segnalazioni possibili e immaginabili, c'è un tasto di selezione e da lì fai tutto, capito? Però è separato dal sistema radio navigatore. No, il mio no, il mio è tutto collegato alla radio, tutto il computerino è collegato alla radio, perché per esempio da poco l'anno scorso, là, diciamo l'anno scorso, nel 2021, mi è partita un, come si chiama, qualcosa del blocco motore, mi è partito, e lì me l'ha segnato, mi ha squillato e mi ha scritto, in avaria blocco motore, e sapevo già cosa era, capito? Sì, sì, sì, infatti già è utile per quello. A me mi si accende la spia, per esempio, quando superi i chilometri, diciamo, da quando hai fatto l'ultimo cambio dell'olio, oppure l'altra volta mi si è accesa la spia pneumatico, quindi ho gonfiato, ce n'era uno un po' basso, però l'ho gonfiato, poi la devi resettare, no, quella spia accesa, e ho visto che dopo un giorno era ancora a posto, non si è accesa la spia, dopo una settimana mi si accende di nuovo la spia, rigonfio, lo stesso, una settimana, forse di più, perché magari la macchina l'avevo usata di meno. A un certo punto stavo ritornando ad Alghero, si accende di nuovo, oh cavolo, e alla fine cosa c'era? Un chiodo che, a secondo dei colpi che prendeva la ruota, magari usciva un pochettino, entrava, quindi faceva un po' di sfiato, no? E quindi teneva la pressione, però ogni tanto un po' andava via, ovviamente, e non si vedeva questo chiodo. Il gommista, io vado vicino a casa mia dove abita Roberto, in quella zona lì, lo pneumatico, no? Anche loro la prima volta dice no, sicuramente un calo di pressione, può darsi che sia la valvola difettosa, dice la cambiamo al limite, però provi così, niente. Ha detto da come si sta comportando questa spia che si accende ogni settimana, circa 10 giorni, ha detto secondo me c'è qualche microforatura. L'hanno messa sul ponte, hanno girato le ruote, poi alla fine uno di loro l'ha vista, mille mie, ed era un chiodino piccolino conficcato in mezzo al battistrada che neanche si vedeva. Tolto quello hanno riparato e grazie a Dio a posto. È ovvio, quando c'è un chiodo in una gomma, poco a poco sempre perde, o camminando, oppure prende una buca, prende una cosa, sempre se ne... Piano piano, a rallento si abbassa. È ovvio che no, la mia cosa di pneumatici non ne ho. Io ho tutti i sensori, sì, infatti sto parlando dei sensori, non mi ricordavo come si chiamava poco fa, sensori, sensore di blocco motore l'ho già cambiato perché quello lì mi ha dato in avaria, quello lì cosa mi faceva? In velocità, su strada, tutto un corpo si spegneva la macchina del tutto, ma camminandomi, e poi di pochi secondi si riaccendeva da sola e partiva. E stava non è peggiorando, me lo faceva. Finché che non sono andato al meccanico e gli ho detto, guarda, mi si accende la spia e mi dice che è il sensore blocco motore, capito? Gli ha messo il suo computer, gli ha collegato, tutto quanto, si dice sì, è quello lì. Gli ha cambiato, boh, non me ne ha fatto più. E io tutto il computer della macchina, il computerino, lo manovro tutto dallo stereo, dal menu dello stereo. Entro sul menu e sfoglio tutto e vedo tutto quello che c'è, cinture di sicurezza, tutto, airbag, tutto quanto mi dice. Allora non lo toccare, lascia tutto così, poi il navigatore lo metti separato, non è un problema quello. Male che vada ti compri un supporto, te lo piazzi lì, ma puoi usare anche il telefono a quel punto. Io uso quello di Google, capito, che già trova tutto lo stesso e funziona bene. Eh sì, lo so. No, in effetti mi ho comprato, cioè già c'ho tutto, c'ho supporto, c'ho tutto quanto per la macchina. E in effetti mi ho comprato un navigatore, me l'avevo comprato, c'era un nuovo dentro la scatola, l'ho usato un paio di volte, perché lo uso per fare veloce quando vado alla zona di Olbia, a Cagliari, cose così. Ho capito, adesso ti racconto una cosa a proposito di navigatore. 12 anni fa circa, tutta la famiglia avevamo fatto un viaggio in Australia, no? Perché eravamo andati a trovare alle persone che conosciamo. Mia moglie ci aveva vissuto per un anno da ragazza e quindi ci siamo ritornati. E quando siamo andati ho detto mi porto questo vecchio telefono, è un vecchio Nokia versione 5008 e aveva il navigatore di serie questo telefonino e avevo scaricato le mappe dell'Australia, ho detto chissà se funziona là. E questo navigatore del telefonino però funzionava anche senza la connessione del telefono, perché aveva proprio l'antennino integrato e prendeva il segnale satellitare, capito? Quando siamo andati lì ci hanno prestato una macchina, siamo rimasti per un mese circa e ci hanno prestato la macchina e nella macchina c'era un tondom, dice guarda usate quello eccetera, non trovava le strade, non trovava le strade. A un certo punto ci perdiamo e dovevamo fare 400-500 chilometri là, fai blocchi così di chilometri perché è grande l'Australia, quindi ce n'è da girare. Ci perdiamo e quel navigatore della macchina non dava nessun segnale, diceva che la strada era giusta e invece era sbagliata. A un certo punto mi ricordo di aver quel telefono, attacco quel telefono e mi dice fa inversione, faccio inversione di marcia, imbocco un'altra strada e entriamo in questa strada sterrata, larghissima ma tutta strada sterrata, attenzione pericolo di alluvioni, solo che quando siamo andati noi stava iniziando la primavera quindi non c'era pericolo. Iniziamo a fare questa strada, 10 km, 20 km, 30 km, mia moglie, magari questo navigatore non funziona, quando mai questa è una strada sterrata, dice, non, se mi dice che è la strada giusta. Alla fine, dopo aver fatto 50 e passa chilometri di sterrato, troviamo una fattoria, andiamo a chiedere al proprietario, mia moglie che conosce bene l'inglese, e gli fa, stiamo andando a Byron Bay, che è una località, no? E quindi volevamo sapere se questa è la strada giusta, ma penso che abbiamo sbagliato. No, no, dice, non avete sbagliato, questa è la strada principale, dice, questa è la strada più breve, è più breve di 300 km, se fate l'altra, quella asfaltata, tutta quella a 8 corsie, eccetera, quella è più lunga perché vi fa fare il giro, non so di dove. E quindi il vecchio telefonino con quel navigatore della Nokia funzionava benissimo. Da quel momento abbiamo usato tutto il viaggio il telefonino e funzionava benissimo. Io lo credo, ma se a me il fantoccio di mio cognato una volta dovevo andare a Portocervo e mi ha fatto fare 40-50 km in più, mi ha fatto fare, alla fine gli ho detto guarda la prossima volta vuoi fantoccio fanno studiare, a chi mi pare Don Taviro mi pare, perché la strada, avevo fatto più poca strada senza il tondo. Infatti molte volte ci vai ad intuito oppure seguendo la segnaletica e arrivi prima. Sì, ma io tutta la zona di Urbia più o meno la conosco e ci so andare anche senza il navigatore, però lui, perché lui non la conosceva la strada, ci ha messo il tondo, ma non c'è, non c'era bisogno. Ci ha detto sì, un buon momento a chi su Don Tò e noi non ci arriviamo più a casa. Oia. Vabbo Franco, che mi sa che si è fatto tardi, sono le 11:20, devo fare una ricerca su internet e poi domani mattina che sono libero mi metto e mi pago questo diavolo di bollo, capito? Prima che finisca il mese di maggio. Nel caso ce la risentiamo, mi ha fatto piacere di fare quattro chiacchiere, non c'era nessun altro, il tuo segnale è sempre buono qua a Sassari. Capo, e vabbè oggi sto usando il capo, sto usando con l'MC60. Va bene, segnale è sempre quello, Santiago 8, capito, ma la radio è buona, radio 5, non ci sono problemi qua. Ah, non ho problemi per la radio, perché la radio o attacco Galaxy, o attacco questo, o attacco un'altra radio e i microfoni che gli ho abbinato sono sempre buoni, perché se non sono buoni li prendo, li metto da parte, li metto. Addirittura c'ho un altro microfono che c'ho in riparazione, c'ho il Parne più 3, e quando mi arriva il turn più 3, vedrai che al gara che cosa gli faccio. Il mio invece l'avevo toccato qua dall'impostazione della radio, no? C'è il mic gain eccetera, forse avevo sollevato troppo e mi dicevano che era un po' saturo, l'ho riportato come prima e adesso dovrebbe essere chiaro come microfono, come era prima. Sì, tu c'è una modulazione chiara, bella, veramente bella la modulazione. Non ti conosco in verticale come c'hai la voce, però è bellissima la modulazione. Guarda, sono poche le modulazioni che, perché c'è gente che escono male, glielo dici, poi escono ancora più male, o a fischio, o a coso, però cosa gli dici? Sono abituati a uscire così. Ne ho capito. Vabbè, ti devo lasciare perché se riesco a vedermi queste cose me la dormo più tranquilla stanotte. E io mi faccio un po' l'ascolto lì in 40 minuti perché ho visto che c'è gente, anche se ce l'ho abbassata adesso l'altra radio. Poi vediamo un po' l'ascolto e poi me ne vado a letto. A posto, ciao Carlo, mi ha fatto piacere anche a me di farvi quattro chiacchiere e ci sentiamo alle prossimine. Ciao Carlo. Va bene, ti ringrazio fra altrettanto, già ti farò sapere poi quando metto a posto la radio, poi se ti serve il contatto non ci sono problemi, te lo faccio anche avere, capito? Ma c'è la Coso, Massimiliano, Claudio, a me l'hanno dato loro, capito? Adesso vediamo se riesco a procurare questi transistor e vediamo cosa ne esce fuori, ti farò sapere comunque. Ciao, buonanotte. Ehi capo, sì, già lo so, te l'ho dato Massimiliano. Massimiliano già è sempre a portata di mano. Sì, già riuscirà, speriamo che riesca a metterlo a posto, perché quella è una bella radio, è una bella radio. Sì, io quando capita che, non adesso, più avanti, adesso ancora già funziona bene, poi se non posso dare il segnale non me ne frega niente. E poi più avanti, quando speriamo che ne usciamo anche da questa pandemia schifosa e via. Ok, ciao, buonanotte. Ah, buonanotte, Fra, buonanotte.